Pierina e il secchiolino del latte, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Pierina, una mattina, col secchiolino in testa ritto sul cerchio, a vendere il latte se ne va. Succinta la gonnella per essere più lesta e con scarpette basse cammina alla città. Allegra, canticchiando, facendo i conti in mente, pensa che può dal latte ritirar qualche denaro e 6 dozzine d'uova a comprare agevolmente. L'ova poi si covano ed ecco a poco un bel pollaio in corte che non le costa caro. La volpe con Pierina avrà cattivo gioco. Ben ingrassate, infine, si vendon le galline. Col piccol capitale si compra un maiale, che tenero in principio, a furia di gruschello, diventa un porco bello. Raccolto un altro gruzzolo, con questo, visto il prezzo che fanno sul mercato, si compra un vitello, anzi una vacca, e sembra le vedere già sul prato saltare questo e quello. A tanto ben di Dio, saltando essa di gioia, il secchiolin cascò. Vitello e vacca ed ova e porco bello, addio. La sua fortuna in terra dispersa contemplò. Tornata a casa, vede che è solo per miracolo se l'uomo non la batte. Da questo fatto origine ebbe l'antica storia del secchiolin di latte. Non c'è nessun che in aria non fabbrichi un castello, o Don Chisciotti, o Pirri, o saggi o mentecatti. Ciascun sogna vegliando, e siamo tutti distratti dai sogni che riempiono di nuvole il cervello. Tutto par pronto e facile, l'amor, l'onor, la gloria, e subito mi gonfio di pazza vanagloria. E già mi sembra d'essere o papa o prince o re, già vedo tutto il popolo prostrato innanzi a me. Ma proprio mentre io siedo dei miei gran sogni in cima, cade il castello e resto il Bertoldil di prima. Fine della favola, Pierina e il secchiolin di latte. Questa registrazione è di dominio pubblico.